simulati, io credo, quei sensi d'amistà. Ma non si indugi a cercar di Rinaldo. O amico, il cielo opportuno ti guida. Mi segui, io vorrei far, ma come? Pensa che al ciel giurasti di impugnar la tua spada nella gloriosa impresa, per cui tutta già vedi Europa accesa. Pensa che a te, soldato, di superare gli incanti del bosco a noi vicino, che da te solo ciò può ottenersi. Amico, hai vinto. Torno, sì, torno dove la gloria e il mio dover m'attende. Ferma, Rinaldo! Armida, ah, in dirlo mi si divide il cuore. Sappi che il cielo, a cui ne vano toponi, vuole. Che vuole il ciel? Io t'abbandoni. Ah, barbaro! Ah, crudel! Donna gentile, te non produsse, no! Ma tigre ircana! Vattene, sì! Fra poco io pur ti seguirò, poiché l'affanno mi toglierà la vita, e sperto ignudo al fianco tuo m'avrai per agitarti sopra.